Capitolo 16. Alunna e maestro. La mattina dopo di buon'ora, prima che la famiglia Hösewinkel fosse sveglia, Mally si alzò piano piano, si vestì e scese per la scala di servizio e dalla porta di dietro uscì sulla stradina laterale. Fino al giorno avanti avrebbe dovuto guardarsi attorno per trovare la strada fino all'albergo di Herr Sörensen. Ora vi puntò dritta come un piccione viaggiatore punta alla sua colombaia. Per molte lunghe ore della notte aveva atteso l'alba con impazienza. Ora che camminava spedita, vedeva il mondo riprendere lentamente luce e colore attorno a lei. I profumi le venivano incontro con una lieve brezza ed ella pensava: qui è tutto diverso da ciò che era quando sono arrivata, e ciò perché la primavera è venuta. Più tardi viene l'estate. Tutto a un tratto ricordò, quasi parola per parola, il progetto di Arn, che in estate voleva andare con lei su una delle navi del padre verso il nord, dove il sole non tramonta mai. Mentre il pensiero le correva così, aveva varcato il portone dell'albergo e imboccato la scaletta per salire da Herr Sörensen e, senza bussare, come se avesse saputo di essere attesa, aveva aperto la porta. Herr Sörensen si era, come sempre, alzato prima di tutti ed era intento alla sua meticolosa toiletta mattutina. Quando vide entrare Mally, si ritirò dietro un paravento e la fece sedere su una sedia davanti alla finestra. Lei, tuttavia, non si sedette subito, ma dette un'occhiata alla stanza, a un quadro dell'incoronazione del re Karl Johan, alla vecchia borsa da viaggio di Herr Sörensen appoggiata all'armadio. Poi si tolse lentamente il cappello e il pastrano, come per dimostrare che era venuta per rimanere, e si lasciò cadere giù sulla sedia che le era stata indicata. Herr Sörensen si affacciò 3 volte sopra il paravento, via via che si insaponava e si radeva, per osservarla attentamente, ma non disse una parola. Alla fine entrò nella stanza, raso di fresco e con la parrucca, avvolto in una vestaglia la cui imbottitura schizzava fuori qua e là. Mally si alzò e si buttò nelle braccia di lui e tremava tanto che non riusciva a parlare. Herr Sörensen non fece alcun tentativo per calmarla e non la abbracciò nemmeno, ma lasciò che lei gli si aggrappasse contro, come chi sta per annegare si aggrappa a un pezzo di legno. Durante la conversazione che seguì, ella si tirava ogni tanto indietro per guardarlo in viso e poi tornava a premerglisi contro, come alla ricerca di un rifugio buio in cui le fosse concesso di vedere il nulla. Prima di tutto gridò forte e con voce rauca contro il petto di lui: «Ferdinand è morto!» «Sì», Herr Sörensen, grave e affettuoso, disse. «Sì, è morto». «Lo sapevate?» gli gridò come prima. «Lo avete sentito dire? Lo credevate?» «Sì», egli rispose, «infatti». Ella si raddrizzò e riprese il controllo della voce. Poi lo allontanò da sé e fece un passo indietro. «Arn Hösewinkel mi ama!» gridò con voce piena e squillante. Lo sguardo di Herr Sörensen colse il mutamento del suo viso. «E tu lo ami?» chiese. Siccome la domanda era tanto vicina alla battuta di un'amata tragedia, egli la ripeté, e questa volta con le parole stesse della tragedia. «E tu pure lo ami, candida fanciulla?» Le battute delle tragedie erano impresse anche nel cuore di Mally, e subito gli rispose gridando con gran forza: «Il sole e la luna, le celesti schiere, gli angeli, Dio stesso e gli uomini mi odano. Io sono risoluta nel mio amore per lui». «Bene», disse Herr Sörensen. «Bene», ripeté dopo un silenzio. «E allora, Mally?» «Allora», gemette Mally in un grido sgomento, come un gabbiano tra i marosi. «Ora debbo andar via! Dio, debbo andar via prima di renderli tutti infelici!» Si torceva le mani che le pendevano davanti. «Non voglio rendere infelice nessuno», disse. «Non voglio, non voglio! Dio stesso vede che non sapevo di farlo. Herr Sörensen, credevo di non aver detto menzogne, di non aver fatto errori. Ora debbo andar via, non posso più star qui. ripeté, gridando a un tratto come se fosse una decisione nuova e improvvisa della quale lo stesse informando. Non debbo, voi sapete che non debbo tornare alla casa sulla piazza, a meno che non sappia che presto, più presto che posso, ne tornerò via, perché me ne è stata mostrata la porta, Herr Sørensen, un uomo giusto che non ha mai fatto uso errato della sua bilancia e del suo metro, ma ha mostrato quella porta ieri sera. La gente giusta può far dirottare un ciclone, perché da nord-ovest si diriga a nord. Ma io, gemeva, il gran vento del Kvasefjord è venuto diritto dove ero io, eppure non ho mai pregato Dio che lo mandasse. Giuro, giuro, giuro di no. La vecchia sorella di mia nonna prese a dire improvvisamente, come se cercasse una nuova rotta per i suoi pensieri, ma di nuovo si trovò contro il dolore della rotta precedente. Era così in collera con mia madre perché aveva sposato mio padre, che non voleva più metter piede in casa sua. Ma un giorno incontrò me in strada, mi fece salire in camera sua e mi parlò di mio padre. Diceva: tuo padre Malli non veniva dalla Scozia e non era un marinaio dei soliti. Era uno del quale tanta gente ha udito parlare e per il quale hanno trovato un nome. Era l'Olandese Volante. Credete sia vero, Herr Sørensen? Dopo una breve riflessione, Herr Sørensen rispose: no, non credo. Malli sembrò trovare conforto in quell'assicurazione, ma dopo un attimo l'ondata di disperazione tornò a sommergerla. Eppure, gridò, li tradisco tutti, come mio padre tradì mia madre. Herr Sørensen indugiò nuovamente per riflettere, poi disse: chi hai tradito, Malli? Ferdinand, gridò Malli. Harn! Quando sarò lontana, disse, avrò il coraggio di scrivere ad Harn la verità su me, ma non posso, non oso dirgliela in faccia. Al pensiero del volto di Harn rimase nuovamente in silenzio, poi riprese a torcersi le mani. Devo andar via, disse. Devo andar via, se non me ne vado, attiro la sventura su di lui. Sì, sì, sventura e dolore, Herr Sørensen. A questo punto fece uno dei suoi brevi passi indietro e lo guardò in viso con occhi limpidi e spalancati. Potete credere a me, Herr Sørensen, disse, perché parlo come chi abbia un suo genietto soprannaturale che schizza fuori da sottoterra. Vi fu un lungo silenzio nella stanza. Ma sì, disse Herr Sørensen, posso crederti benissimo, Malli, perché, piccola Malli, anch'io sono stato sposato. Sposato? Ripeté Malli stupita. Sì, disse, in Danimarca, a una donna buona e degna d'amore. E ora dov'è? Chiese Malli guardandosi attorno, sbalordita, come se la perduta Madame Sørensen potesse saltar fuori in quella stanzetta. Grazie a Dio, disse Herr Sørensen, grazie a Dio. Ora è sposata di nuovo, un buon uomo, in Danimarca. Hanno figli loro. Lei ed io non avevamo avuto bambini. Me ne sono andato, proseguì, senza farglielo sapere, in segreto. L'ultima sera che siamo stati insieme nella nostra casetta, avevamo una bellissima casetta, Malli, con le tendine, il tappeto, mi disse: tutto ciò che fai nella vita, Valdemar, lo fai per rendermi felice, è tanto bello da parte tua. Oh, sì, gridò la ragazza, come fosse stata colpita al cuore. È così che parlano con noi, è questo che credono di noi. La terza volta Herr Sørensen rimase assorto nei suoi pensieri, poi prese la mano di Malli e disse: mia cara, e rimase in silenzio come prima. Sediamoci a discorrere, disse alla fine, e la condusse a un divanetto che aveva la fodera strappata. Si sedettero fianco a fianco senza che uno o l'altro riuscisse a parlare, ma dopo un poco Malli, nel suo bisogno di comprensione umana e come per placare un giudice, o come se tentasse di consolare un'altra persona colpita dalla sventura di un'eguale condanna, cominciò a tastare qua e là le spalle, il collo e la testa di Herr Sørensen. Passò le dita nella sua parrucca, tanto che un boccolo o due rimasero ritti. E siccome, mentre lo pregava o lo accarezzava, ella non lo guardava, egli doveva, per evitare che quelle dita imploranti gli si ficcassero negli occhi o nella bocca, piegare il suo capo, buttandolo lentamente all'indietro, verso destra o verso sinistra. Herr Sørensen, avvezzo a essere obbedito e ammirato, ma non accarezzato, lasciò che le carezze si prolungassero per diversi minuti e rimase seduto come prima, anche dopo che Mally aveva lasciato ricadere le mani. Dapprima sentì che il loro gruppo stava prendendo forma come quello del vecchio re infelice e della sua amorosa figliola. Ma infine il centro di gravità si spostò ed egli fu pienamente consapevole della sua autorità e della sua responsabilità. Non era in fuga. Era stata la sua giovane discepola a volare da lui in cerca di aiuto. Diventò nuovamente l'uomo potente più degli altri, Prospero. E col mantello di Prospero sulle spalle, senza che scemasse la sua compassione per la ragazza disperata che gli stava accanto, si rese conto che cresceva in lui la felice consapevolezza dell'appagamento e della riunione. Non doveva abbandonare il suo bene prezioso, ma ella era ancora sua e sarebbe rimasta con lui. Avrebbe veduto realizzarsi il grande progetto della sua vita. Dopo tanto silenzio, parlò. Ora mi alzo e tu, seduta in silenzio, ascolta la fine della nostra penosa traversata. Egli si alzò e si diresse eretto e con passo fermo a un traballante tavolinetto che era vicino all'altra finestra della stanza e che gli serviva da scrittoio. Tirò fuori delle carte dal cassetto e vi si seppellì, scegliendole, prendendoci degli appunti, riponendone alcune e tenendone altre. Ci mise molto tempo. E siccome una volta Mally si mosse, egli, senza voltare il capo, le fece cenno di stare al suo posto. Alla fine spinse da un lato carte e matite, ma rimase seduto, voltandole le spalle. «Rinuncerò», disse, «alle mie rappresentazioni di Christian Sand». Mally non rispose. «Sì», proseguì con voce ferma, «sì, farò annunciare alla città che annullo lo spettacolo e vado a Bergen». «Certo, si sa», dichiarò, come se ella avesse fatto delle obiezioni. «Costerà caro. Avremmo potuto avere un successo grande e particolare in questa città. Per te, povera creatura mia, sarà una perdita, ma non grande come avevo temuto. La colletta della cittadinanza la ripagheranno un poco, e nella vita, Mally, bisogna sempre tenere aperto il conto dei guadagni e delle perdite». «Io stesso, con te», disse, «andrò via da qui prima, segretamente. Gli altri, secondo le mie istruzioni, ci seguiranno dopo». Udì Mally alzarsi, fare un passo verso di lui e fermarsi. «Quando partirete?» chiese con voce tremante alle spalle di lui. Herr Sørensen rispose: «Sono quasi sicuro che c'è una nave mercoledì». E subito, con l'autorità di un ammiraglio sul ponte, ripete secco: «Mercoledì». «Mercoledì», ripete Mally, come una eco lunga e dolorosa che provenisse dalle colline. «Sì», disse Herr Sørensen. «Dopodomani», disse lei nello stesso modo. «Dopodomani», ripete lui. Mentre dava quegli ordini, sentiva la propria figura espandersi, ma aveva allo stesso tempo il senso del profondo silenzio di lei dietro di lui. E gli era stato sempre difficile sopportare il silenzio. Come se avesse un paio di occhi pungenti dietro il capo, la vide in piedi nel centro di quella stanzetta, mortalmente pallida per le lunghe sofferenze, come sulla barca la sera dopo il naufragio. Il conflitto tra la consapevolezza del suo potere e la compassione lo fece per alcuni istanti vacillare nello spirito e anche dondolare lievemente sulla sedia. Alla fine fece una piroetta, posò le braccia sullo schienale della sedia e il mento sulle braccia, pronto ad affrontare la vista di tutta la desolazione del mondo. Mally si staccò dal punto del pavimento su cui era stata ritta, immobile, e venne verso lui, lenta, ma con gran forza, come un'onda che corra verso la costa. Tutte le altre parole che la disse, poi, vennero da lei molto lentamente, e ogni frase era più lenta, e la sua voce non era forte, ma chiara, lo squillo profondo di un campanello. Disse: «Ti prego, ricorda che t'ho reso degni servigi. Non t'ho mentito mai, non ho sbagliato, e t'ho servito senza bronci o borbottii». Herr Sørensen rimase perfettamente immobile nel sentire le battute di Ariel e pensava: «Dio mi protegga, come brillano gli occhi di quella fanciulla. Non guarda me, forse non mi vede affatto, ma i suoi occhi brillano». Vi fu una breve pausa, poi ella proseguì lentamente: «Salve, gran padrone mio, pensoso signor mio, salve. Vengo ad esaudire il tuo piacere, sia volare, nuotare, tuffarsi nel fuoco, cavalcare sulle ricciute nubi. Ai tuoi ordini, forti e potenti, Ariele offre ogni sua bravura». Un'altra pausa, e poi di nuovo: «Gli elementi che han temperato le vostre spade possono anche ferire i fragorosi venti, offendere le acque che a scherno delle vostre stoccate subito si rinchiudono, o staccare una piuma a una delle mie penne». Herr Sørensen non si trovò davvero sconcertato da quel correre che Malli faceva da un punto all'altro del testo del dramma di Shakespeare. Si trovava quanto lei di casa nel testo e poteva navigarci altrettanto bene. Ora lei lo guardava dritta e sempre era raccolta nello sguardo e nella voce. Di nuovo parlò, così dolcemente, sottomessa e schietta, che il cuore si sciolse in petto a Herr Sørensen e negli occhi gli spuntarono limpide lacrime. «Nel fondo a cinque braccia giace Malli. Le mie ossa son fatti coralli. Ci son due perle overa gli occhi miei, nulla di me che si dissolva. Il mare non ha mutato in cose ricche, in cose strane. Le ninfe del mare ad ogni ora mi suonano rintocchi. Eccole, senti, din, don, campane». Ci fu un ultimo e lunghissimo silenzio. Ma Herr Sørensen non poteva lasciarsi escludere così dalla gara. Alzò il capo, tese il braccio destro verso lei, diritto oltre lo schienale della sedia, e poi, lentamente, come aveva fatto lei, declamò: «Ariele, mio cardellino, torna pure al tuo elemento, sii libero e sii felice». Malli rimase lì ancora un attimo. Poi si guardò attorno cercandosi il pastrano, lo infilò, ed egli si accorse che era il vecchio pastrano col quale era partita da casa. Quando se lo fu abbottonato, si voltò verso di lui. «Ma perché?» gli chiese. «Le nostre cose debbono andare in questo modo». «Perché?» ripeté Herr Sørensen. «Perché le nostre cose debbono andare in modo tanto disastroso, Herr Sørensen?» precisò. Herr Sørensen, fortemente esaltato e ispirato dalle ultime parole di Prospero, si rendeva conto di doverle rispondere, basandosi sulla sua esperienza di una lunga vita, e disse: «Taci, fanciulla. Mai dobbiamo domandare. Sempre dobbiamo lasciare che altri interroghino noi, perché la risposta è il nostro nobile privilegio. Risposte argute e limpide, risposte mirabili a domande di un'umanità delusa e discorde. Mai sta a noi chiedere». «Sì», disse Malli dopo un attimo o due, «ma in cambio che riceviamo?» «In cambio», ripeté. «Sì», disse di nuovo, «che riceviamo in cambio, Herr Sørensen?» Herr Sørensen rievocò mentalmente la loro conversazione, poi rievocò addirittura la lunga vita che doveva dettargli la risposta. «In cambio? Ahimè, piccola Malli mia», disse con voce assolutamente diversa, e questa volta non si rese conto che proseguiva nel suo linguaggio sacro e prediletto. «E in cambio riceviamo la diffidenza del mondo e la nostra solitudine crudele. Null'altro». 17. La lettera di Malli. Venerdì sera Arne Hösewinkel tornò a Stavanger. Allora gli porsero una lettera che conteneva una moneta d'oro. La lettera era la seguente: «Caro, amatissimo Arn, ti scrivo col volto inondato di lacrime, Quando leggerai questa lettera, io sarò lontana e non ci rivedremo mai più. Io non sono degna di te perché t'ho ingannato e ti sono stata infedele. Sì, ti ho ingannato fin dalla prima volta che ti ho veduto e tu mi hai sollevato dalla barca, ma pure ti giuro che non lo sapevo e che non capivo qual era la mia verità. Ti giuro anche un'altra cosa, e anche questa devi crederla, finché avrò vita, io ti amerò. Ho un segreto da dirti in questa lettera. Lo so, Arn, che mi ami, e forse quando t'avrò detto questo segreto tu mi perdonerai e mi dirai che tra te e me tutto sarà com'era, ma non può essere così, perché io porterò in me la mia infedeltà verso te, e ovunque io sarò, essa sarà con me. Credevo che nulla al mondo fosse più forte del nostro amore, ma la mia infedeltà verso te è più forte. La primissima volta che capii questo fu quando seppi che Ferdinand era morto, perché è morto e tu a Stavanger questo non lo sai. E quando l'ho veduto disteso nella bara e ho udito le parole di dolore della sua povera mamma, allora ho intuito, come se qualcuno me l'avesse detto da lontano, che questa morte sarebbe venuta a dividere te e me. Eppure non avevo ancora pienamente capito che le cose erano come erano, e mi pareva che forse perfino così le cose avrebbero potuto essere per me belle come prima, ahimè, quanto belle. Ma pure v'era dell'altro. Mentre vagavo qua e là in gran tristezza e disagio, e in cuor mio non sapevo che cosa credere, perché la domenica sera, mentre stavamo in salotto, tuo padre, per farmi piacere, mi narrò la storia di Jens Abele del fuoco. Dopo tuo padre mi disse che se una persona disperata voleva un buon consiglio, doveva lasciare che la Bibbia di Jens Abele si aprisse da sola, perché l'avrebbe trovato a quella pagina. Nel mio dolore mi indussi a farlo, ma ciò che lessi fu terribile. Stasera ho portato la Bibbia in camera mia ed è aperta davanti a me e ho riletto il testo per scrivertelo. In questo modo mi pare di scrivere in presenza di quell'uomo buono e meritevole di Jens Abel, e mentre leggi anche tu devi immaginare che fosse seduto accanto a me mentre scrivevo. Ciò che mi è capitato sotto gli occhi è nel libro di Isaia, al capitolo 29, al primo versetto, che dice così: Sventura ad Ariel, da te verrà dolore e duolo, e tu sarai abbattuto. E parlerai da terra, e la tua voce verrà fioca come da ventriloquo, e la tua favella sarà un bisbiglio che esce dal suolo. E queste parole del profeta Isaia mi colmarono di una gran paura. Eppure, soltanto quando lessi più avanti, capii in pieno che per me ogni speranza era finita, perché allora lessi l'ottavo versetto. Così accade anche ad un affamato che sogna di mangiare, ma poi si desta e il suo stomaco è vuoto. O ad un assetato che sogna di bere, ma poi si desta ed è svenuto, e l'anima sua ha appetito. Sì, Arn, è questo che ti accadrebbe se mi tenessi, e non altrimenti. Perciò ti dico che non devi pensare a perdonarmi, perché questa è una cosa che non può essere fatta. Siamo giovani, tutti e due, e io sono la più giovane di noi due, ma in ciò che scrivo ti parlo come se fossi vecchia quanto il profeta Isaia, perché lui sono io in quest'ora. È come se fossi saggia quanto lui, perché lui sono in quest'ora. E mi sembra che nella mia sconfinata infelicità potrò ancora trovare parole che un poco ti consoleranno. Mai sarà stato vano per te, Arn, avermi incontrata, e mai sarà stato vano per me che tu mi pianga. Ti scriverò inoltre che stasera ho composto una poesia. Non avevo mai composto poesie prima d'ora, perciò questo non è come dovrebbe. Ma pure la leggerai e l'avrai nel pensiero quando mi ricorderai, perché dice così: Ti ho reso povero, dolce mio cuore. Ti sono lontana quando siamo vicini. Ti ho reso ricco, cuore mio caro. Ti sono vicina quando siamo divisi. E ora mi son fatta coraggio. E ti scriverò del segreto di cui non sai nulla. Sappi dunque, Arn, che quando ero in mezzo alla tempesta nel Kvasefjord, io non avevo affatto paura. La gente di Kristiansand mi chiama eroina, ma un'eroina è una ragazza che vede il pericolo e ne ha paura. Però lo sfida. Io invece non lo vedevo e non capivo che vi era pericolo. Ahimè, Arn, In quella stessa ora il tuo buon genitore s'aggirava in grande ansia per la Sophie Hösewinkel e la mamma di Ferdinand soffriva in profondo timore e terrore per il suo figliolo. E adesso capisco e vedo bene che per una creatura umana è bello temere. E vedo anche chiaramente che coloro i quali non temono sono perfettamente soli e reietti e respinti da tutti. Ma io non avevo affatto paura. Perché io pensavo o credevo qualcosa che tu non potrai mai immaginare da solo, ma che io ora ti spiegherò. Pensavo che la tempesta fosse la tempesta della commedia, la tempesta in cui dovevo poco tempo dopo recitare una parte e che avevo letto più di 100 volte. In essa io sono Ariele, uno spirito aereo, e il mio maestro è Prospero, un mago potente. E in quella notte pensavo che se la Sophie Hösewinkel la affondava, io potevo volarne via e allontanarmi da lei con la forza delle mie ali. Quando ho udito l'equipaggio gridare «Siamo persi!», ho riconosciuto le parole e ho pensato che il nostro naufragio fosse il naufragio della prima scena. E quando con gran sgomento gridarono «Misericordia di noi!», riconobbi anche quelle parole. E possa Dio aver misericordia di me, resi forte di loro nella tempesta. Mi dicono che in quella notte ho chiamato molte volte il povero Ferdinand, ma anche questo dipendeva dallo stesso motivo, perché il protagonista di quella commedia è il principe Ferdinando, e così a bordo della Sophie Hösewinkel era Ariele, che nel fragore dei marosi chiamava forte il principe Ferdinando perché venisse a lui. In quella commedia c'è anche una splendida isola, piena di canti, suoni e musica soave. Su di essa, alla fine, tutti i naufraghi sono raccolti illesi. E in mezzo alla tormenta, pensavo che quell'isola non era lontana. Sì, ora sai tutto. Ed è per questo motivo che non puoi tenermi, perché io sono di un altro luogo e ora devo andarvi. È possibile, lo so, che tu dimentichi ciò che accadde una volta. Ma sarebbe sempre lo stesso in tutto quanto accadrebbe tra te e me. Sì, che l'affamato sogna di mangiare, ma poi si desta e il suo stomaco è vuoto. E che l'assetato sogna di bere, ma poi si desta ed è svenuto. E l'anima sua ha appetito. Metto una moneta d'oro in questa lettera, ed è per questa che mi ricorderai. Viene da mio padre, ma è d'oro puro. Adesso starò qua ferma e aspetterò un'ora prima di chiudere questa lettera, così ho un'ora di più in cui non t'ho svelato nulla, in cui nulla è finito tra te e me, e io sono soltanto il tuo amore, colei che deve sposarsi con te. Ecco, l'ora è finita. Intanto ho pensato a due cose. La prima delle due è questa. Quando salperò da qui, potrò nuovamente capitare in una tempesta come quella del Kvasefjord, e questa volta però capirò chiaramente che non è una commedia in teatro, ma è morte. E mi sembra che allora, nell'ultimo momento prima di affondare, io potrò essere tua in tutta verità. E penso che sarà bello e superbo lasciare che il battito dell'onda copra il battito del cuore e in quell'ora dire: Mi sono salvata perché t'ho incontrato e t'ho guardato, Arn. Ma l'altra delle due cose è questa. Se ora udissi i tuoi passi sulle scale dell'ufficio, e tu venissi in questa camera da me. Ora mi sembra che i momenti in cui ho udito i tuoi passi sulle scale sono stati più felici di tutta la mia vita. Allora le mie braccia dolevano tanto nell'ansia di stringersi attorno al tuo collo che avrei potuto piangere di dolore. Sì, come dolgono. Addio allora. Addio. Addio, Arn. Addio. Tua respinta e senza fede sulla terra, ma fedele nella morte, nella risurrezione e nell'eternità. Malli. Fine.